Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Ho preso la via della risalita e risalendo ho un'altra compagna di risalita. È Lady Pink. È la ragazza in rosa, rosa dalla punta dei piedi alla punta dei capelli, che è felice nel cesto che stringe fra le braccia, pieno di fichi d'India, e mi sembra facile capire da dove provenga. Fa ridere quelli che vanno in Sicilia tornano sempre coi fichi d'India, come se non li vendessero anche a Belluno, che ne so, chissà perché. Poi lasciano un sacco di spine addosso, vero? No, ma di solito te li danno già puliti, ma non sono i fichi d'India, abbiamo già tante spine dentro, sono gli arancini, sono... Beh, quello esiste mondo arancino in tutta Italia, è il franchise. L'arancina, perché poi c'è questo dibattito tra l'arancino e l'arancina. Vabbè, l'arancina. I pippe mentali si fanno solo i siciliani, perché non cambia la sostanza. Il gusto no, no, infatti quando le metti in bocca si scioglie, diventa tutt'uno con te. Beh, le metti in bocca e c'è una bella bocca, perché l'ultima volta mi hanno offerto un'arancina a Catania, era una specie di zombie con un diametro di mezzo metro, una cosa gigantesca. Ma è lì la differenza, è come la mangi, se la mangi da fighetta milanese che la sbocconcelli piano piano, oppure se ti tuffi dentro per godere dell'essenza dell'arancina, è lì che fa la differenza, è lì che vedi la tempra della persona, è come ti cacci in bocca l'arancina che fa la differenza, è una filosofia di vita, no? No, ma come mangi l'arancina io ti dirò che sei, ma fa la differenza. Innanzitutto l'arancina ti sbrodola tutto, sugo di mozzarella, pomodoro, peperone, quello che c'è dentro non lo so, quindi... è un mangiare abbastanza sguaiato, dai, mica puoi mangiare fettine. Il problema dov'è? No, vabbè, basta saperlo, non puoi mangiarla col coltello, forchetta, fettine. Ecco, te la infili in tu... bocca e ti sbrodoli tutta. È un po' come accarezzare il corpo di una donna con i guanti e accarezzare invece il corpo di una donna con le mani nude. Cioè, due cose completamente differenti. Beh, no? Meglio con i guanti. Ma dipende, credo che ognuno poi insomma lo possa fare come vuole, è una questione di attitudine, c'è chi ama le cose veraci, io amo le cose veraci, e chi ama le cose pseudo chic. Il tuo viaggio in Sicilia com'è andato? Il mio viaggio in Sicilia è stata la scoperta di una civiltà completamente diversa, parlo di civiltà, ti racconto questa cosa che mi ha colpito. Cioè, hai trovato uomini come si deve, questo vuol dire? Porca miseria. Ah. L'uomo del sud in generale. Beh, più scendi meglio, se vai nel Nord Africa è ancora meglio, che discorsi, dipende. Esatto, ma infatti vorremmo fare delle spedizioni punitive per quelli del sud un po' più spesso. Abbiamo raggiunto questo accordo con la mia amica, siamo partite per due giorni di relax e sono stati due giorni veramente intensi di emozioni, di colori, di profumi, di cibo, ma soprattutto il disorientamento della scoperta che esistono gli uomini che magari ti corteggiano, ma non nel senso per portarti a letto e tutto, ma perché ce l'hanno dentro. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Ti racconto questa cosa, eravamo a Cefalù, eravamo io e la mia amica davanti a un piatto di cozze che non finiva più, cioè mi ci tuffavo. Un trionfo, no? Di cozze, quindi. Ah, buone, cozze grandi e buone, mi ci tuffavo a ritmo, capito? C'era il ritmo anche nell'assaggio, della degustazione della cozza. A un certo punto, senza accorgerci di nulla, arriva una ragazza, cioè la cameriera, e ci porge due bicchieri di vino rosso. Con le cozze ovviamente... poi è la morte sua, figurati. Ma sai, vino bianco, vino rosso poco importa secondo me, nel senso vino che rosso con le cozze. Vabbè. Ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero. Sì, perché... no, io non sono un intenditore, non lo so. Ma infatti, secondo me sono rigidità mentali che abbiamo. Sì, ma io anche sulla cozza ho molti dubbi. Comunque, vabbè, questo dipende. Dai. Vabbè, ognuno c'ha la cozza che si merita, ecco. Allora, in questo diciamo incontro fra cozze, cosa è successo? È successo che dal nulla spunta questa cameriera con due calici di vino, sì, che ci vengono servite, anzi ci dice che sono stati offerti da un signore. Ammazza, ovviamente tu immagini. Pensa che signore, cioè un signore offre una bottiglia, due calici di vino. Un pidocchioso, vabbè, comunque. Ma, senti, al nord è già tanto che riesci a entrare al ristorante con uno, lì arriva uno con un bicchiere, secondo me già fa la porca differenza, quindi adesso non andiamo a cercare il pelo dell'uovo, è già tanto che è arrivato uno con un calice. E certo, basta pochissimo, una cosa è come avere delle pere mature stanno per cadere dall'albero, cioè basta dare una bottarella all'albero e casca tutto. Esatto, esatto. E il problema è questo, che la gente non lo sa, o quantomeno gli uomini del nord, non lo sanno, si fanno un sacco di pippe mentali che poi basterebbe semplicemente essere galanti. Questa è l'unica differenza, cosa che comunque noi non abbiamo. Vabbè, allora, hai trovato un maestro della presa per il culo, vi ha mandato due bicchieri di vino e quindi vi siete sciolte. E l'ha fatto bene, eh? E l'ha fatto con classe, sì. Noi abbiamo accettato di buon grado e molto volentieri di essere prese per il culo, perché l'ha fatto con classe. E tra l'altro non c'era assolutamente l'intenzione di beccare, portare a casa, no, era proprio un gesto galante di benvenuto nella loro terra. L'ho trovato proprio strepitoso, sì, stupendo, rispetto a quello che solitamente ci capita, che andiamo alla cassa e paghiamo noi, perché loro fanno finta di niente. Sì, ma questo è un abominio, tu devi pensare, Lady Pink, questo mi stai descrivendo, su questo dovreste fare le battaglie per l'ordine naturale delle cose. È totalmente anormale questi uomini che tu descrivi, che fanno finta che tu non abbia un minimo di attenzione, cioè non esiste un uomo tipo che ti fa pagare la cassa, non deve esistere. No, esiste. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Vabbè, andiamo avanti, questo con due bicchieri di vino probabilmente vi ha fatto sciogliere come delle meringhe al sole, poi? Ma la cosa divertente è stata proprio la nostra reazione, perché ovviamente non abituate a questa galanteria, ovviamente subito ci siamo irrigidite, spaesate, ci siamo guardate e poi non subito, dopo qualche minuto, è arrivato questo signore comunque di una certa età, aveva anche un po' il fascino del marinaio, no? Poi ovviamente l'immaginazione ha galoppato, quindi questo uomo gentile, educato, galante si avvicina e semplicemente dice: avevo capito che non eravate della zona e volevo semplicemente darvi il benvenuto nella mia terra. Fine, chiuso, ha preso, se n'è andato via. Tu immaginati due donne più o meno piacenti, single, va bene, ok, rilassate davanti a una scofanata di cozze e in un momento ti si apre un mondo e dici: oh cribbio, esistono gli uomini galanti, cioè una differenza immensa. Guarda, ovviamente l'abbiamo ringraziato, cosa, eccetera, ma la cosa non è normale, finita. Un uomo normale. Ma è un uomo normale per te, ma se vuoi venire a farti un giro dalle nostre parti, io ti posso garantire. Ma ci vengo spesso dalle vostre parti, solo che purtroppo non mi pongo questo problema, che vengo sempre per fare altre cose. Adesso andrò in giro a offrire bicchieri di vino, non lo so, non... No, devi uscire con le vecchie carampane. Se tu esci con le vecchie carampane, cioè con noi, con le donne di una certa età. Ma tutte le amiche mie sono carampane, però boh, ci andiamo a sbevazzare sempre insieme, non mi è venuto il problema che nessuno offrisse loro il vino, forse per quello escono con me, non lo so, vabbè. Poi comunque alla fine del pranzo si presenta sempre la stessa cameriera con un cannolo diviso in due e quindi insomma abbiamo concluso il pranzo. E il cannolo chi ve l'ha offerto invece? Sempre lo stesso signore. Cioè almeno un cannolo a testa, vabbè, lui diceva un cannolo, ciò ve le fate a metà, giusto? No, vabbè, giusto. Era un simbolico. Assaggio, un timozzo, diciamo, per assaggiare anche il cannolo, cosa che ovviamente beh, almeno due, scusa, due cannoli. Mangiato. Ma due cannoli poteva fare lo sforzo. Metteva altri €2 su questa sua luculliana offerta. No, è stato giusto. È cannoli. Stato giusto nel tempo, nelle modalità. E poi dopo nella... v'aspettava fuori? No, è stato molto visto. Galante. Ci siamo avvicinate noi al tavolo, abbiamo ringraziato lui, abbiamo ringraziato poi anche le persone con cui era a tavola, abbiamo scambiato due parole. Perché era un gruppo di amici. Ma era una famigliuola, ecco. Ma c'era anche moglie e figli? Assolutamente. Adesso non farla furba con me, o stai omettendo la parte più interessante. Era una famigliola siciliana, ha visto due poverette, la moglie ha detto guarda quelle poverine, esatto, mandiamogli un bicchiere di vino. Non è un uomo galante, esatto. È una famiglia, va fatto un gradito omaggio, è diversa la cosa. No, vabbè, comunque è stato conoscendo un uomo poi, conoscendo l'humus, ma non sarebbe mai azzardato fare una cosa del genere se la moglie non fosse stata non solo consenziente, ma propositiva. La moglie ha detto guarda quelle due poverine quanto mi fanno pena, si ingozzano di cozze, stanno lì e non le guarda nessuno, sembrano poverine, due cozze tra le cozze. Nelle cozze. E ci sta, e va bene così, non importa. Ma non è lui galante, è stato un omaggio gentile da parte dei siciliani nei tuoi confronti, è diversa la cosa. È stato un uomo galante. E poi alla fine sarà rimasto un cannolo, guarda il bambino quel cannolo, ha dato solo un morsetto a una parte, aspetta, tagliamolo a metà che non si vede e dallo a quelle due così si mangiano anche il cannolo. Senti, il cannolo siciliano è tanta roba, è grande e quindi anche diviso a metà era una gran bella porzione. Si vede che il cannolo milanese a cui siete abituati non basta. Il cannolo milanese tristi è molle, cioè è presente perché non ha non è fatto con l'aria del sud e quindi la crosta, così viene chiamata, è molliccia. Gli resta solo la ricotta, che poi non è che poi magari è ribollita più che ricotta, è una tristezza infinita. Vabbè, guarda che questo è un dato antropologico importante. Vi ha illuminato una vacanza in Sicilia, una famiglia siciliana vi ha offerto numero 2 calici di vino e numero 1 cannolo smezzato per 2. Questo è fantastico. Beh, uno fa tanti fantastico. Sforzi delle volte a immaginare cosa potrò fare, pellicce di bisone, collier di diamanti, viaggi in luoghi favolosi, suite di hotel in luoghi da sogno. Cioè, no, ti porti un tavernello, rovesci in 2 bicchieri, mezzo tavernello a bicchiere, prendi un cannolino che se ne trovano ovunque, anche surgelati, tagli a metà e dai la felicità a 2 donne. E poi tutto qua? No, non è tutto qua. Allora, adesso andiamo allora alla parte interessante. Abbiamo soggiornato a Ballarò. Io non ero mai stata a Ballarò e non avevo neanche dormito a Ballarò. Vabbè, è un mercato come tutti i mercati, pieno di verdure marcite, gente che strilla, gente che scippa, cose colorate, colorite, e quando puliscono rimane tutto così. No. Allora, Ballarò devo dire che non è quello che la gente, l'immaginario può. La gente può pensare. A Floris ancora quando pensa a Ballarò, pensa che quello. È certo. Che è uno studio televisivo con le sedie di cartone. Comunque un scippi, cose del genere, assolutamente no, era un quartiere vivo, un quartiere colorato, intensi profumi, colori, gente che urla, sì va bene, gente che urla, ma bello, perché poi alla fine era la musica che accompagnava che accompagnava la giornata di queste persone che fanno al mercato, che vanno al mercato, che vivono al mercato. I profumi intensi, i gusti, e è stata veramente una scoperta. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. La cosa bella è stata che colui che ci ospitava, il padrone di questo bed and breakfast, ci accompagnava ogni mattina a fare colazione in un bar differente per aggustare le specialità siciliane. Cioè, avuto, ora, dico, i panini con la milza, le brioche con dentro la granita, cioè cosa, tutte queste cose qua. Esatto, non era assolutamente tenuto. È l'iconografia classica, non so, ma se erano due turiste tedesche avrebbero avuto le stesse cose, cioè non è che siete... Va bene, ma non siamo abituate, tu capisci. Sembra che venite da un mondo lontano e scoprite... Cioè non è Goethe che lontano. Fa il viaggio in Sicilia, è Lady Pink che vive a Milano che va in Sicilia, che ci può andare ogni minuto della sua vita, non lo so. Mi piace questo lato romantico, non era insospettato. Vabbè, avete ritrovato che esiste un mondo incontaminato e antico in Sicilia, poi, dopo... E E quindi ci portava ogni mattina, cosa che non era assolutamente tenuto, perché comunque lui aveva fatto il suo mestiere, ci aveva dato la stanza, l'avevano pagato, fine lì, come solitamente succede tutte le volte che vai in un albergo. Ha sperato nella vostra riconoscenza. Ha preso il mal di pancia di accompagnarci in giro per la città, di farci conoscere zone che probabilmente... Quanti anni aveva questo signore? 50. Cioè veramente sì, a 50 anni, fosse un pensionato di 70 anni, ma 50 anni. Vabbè, mi piace il suo divertimento. E poi? E poi abbiamo scoperto quindi questa generosità dei siciliani, cioè scoperto lo sapevamo già, però probabilmente questo accento un bello marcato di questa generosità. Beh, certo, di dai, che parlavano piemontese, fammi capire, beh, Palermo parla palermitano. Sì, d'accordo, ma l'accento nel senso di generosità è più intensa, la generosità dei palermitani rispetto a quello che ci si poteva immaginare. Ma la cosa che mi ha fatto molto riflettere è quanto alla fine siamo noi rigidi, che insomma questi gesti di galanteria, questi gesti di generosità, non essendo abituati a riceverli, dapprima ci disorientano, perché comunque sei disorientata e poi dici, la prima cosa che pensi è oddio, come faccio a ricambiare, no? E invece no, è semplicemente un gesto che a noi donne tocca accettare, ovviamente di buon grado, dobbiamo accettarli i gesti gentili. Ma adesso che quando tornerete nelle vostre umbratili città, è come con la pubblicità delle crociere che sognate, invece che le spiagge del sud sognate Ballarò, sognate il bicchiere di vino, l'arancino, il cannolo, queste cose, avrete un sospiro di nostalgia. Torneremo però in altre zone, il sud io non lo conosco molto, quindi vorrei andare in Puglia e quindi stiamo strutturando un viaggio pugliese. Vabbè, certo, li avrai, avrai i pasticciotti pugliesi, avrai le cozze con le patate se vuoi, cioè, ci sono infinità. L'importante è che siano sempre le cozze. Con le cozze, le cozze ha sempre un senso. È il regno delle cozze, cozze e patate. Famiglia. Cozze e patate, cambia un po'. Cozze e patate. Quindi diciamo la ricerca della cozza è l'elemento assoluto che ispirerà le vostre transumanze verso le zone felici dove ancora esistono uomini. Dove ancora esiste la buona educazione, dove ancora esiste il senso dell'ospitalità e dove ancora fortunatamente esistono uomini che hanno un ruolo specifico, che è quello di essere uomo. Il treno va. Bentornati a bordo, i viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non m'era mai capitato di attaccare discorso con il signore che si occupa nei treni dell'igiene delle toilette. Mi avevano sempre incuriosito come categoria professionale, ma anche come esseri umani. Sono quei signori impeccabili, a volte anche signore, che girano con una impeccabile tutina grigia e hanno alla tracolla un emblematico borsello. Non ho mai capito cosa contenesse questo borsello, lo immagino come il gonnellino di Eta Beta, che è un personaggio della Disney quando ero piccolo, un alieno che tirava fuori dal gonnellino tutto, era capace di tirare fuori un elefante, un'automobile, un'astronave, qualunque cosa, era piccolissimo questo gonnellino con una tasca che attingeva da dei magazzini inenarrabili. Come fanno a occuparsi dell'igiene dei gabinetti, dei treni, con i pochi utensili che stanno in quel borsellino? Immagino che al massimo lì ci potrà entrare uno spazzolino, un flaconcino di detergente, delle salviettine. Eppure quando vengono chiamati, sono annunciati sempre dall'altoparlante, si avvertono i signori viaggiatori che questo treno è dotato di un assistente all'igiene. Quindi uno chiama l'assistente di igiene quando è uscito, la signora incontinente, il signore sporcaccione, il bambino che ha vomitato, il pannolino abbandonato. Lui entra e poi il gabinetto esce, è splendido e stupendo. poi ho cominciato a parlare con questo signore, mi aveva incuriosito, perché era uno sguardo da poeta, una sorta di disincanto per la vita, ma allo stesso tempo uno spirito razionale, pragmatico. E quindi cominciai a raccontare un po' che io viaggiavo in treno, ogni tanto sì, mi fermavo e parlavo con qualcuno. E lui ha cominciato a raccontarmi. Lui prima lavorava con un camion, si occupava non tanto dei gabinetti del treno, ma si occupava delle fognature di una grande città. Insomma, era uno sfurgatore promosso ad assistente all'igiene del treno. Certo, se si potesse guardare tutto quello che sta nelle fogne, si scoprirebbero delle belle cose, no? Certo. Si scoprono i segreti del mondo guardando nelle fogne. Esatto. Anche le cose molti, nascoste. Molti segreti. A lei è capitato? Sì, è capitato qualche anno fa. E com'è stata l'occasione? Io faccio un lavoro di pulizia delle fogne, perché va fatto anche quello. Cioè lo spurgo sarebbe? Lo spurgo, esatto. Cosa avete? Una pompa che aspira fuori tutte le zozzerie? Come funziona? Sì, esatto, una pompa che risucchia tutte le zozzerie. E zozzerie, diciamo, naturali, perché... E anche zozzerie che uno scarica dentro le fognature convinto che non vengano mai trovate e scoperte. Cioè quello che uno butta nella tazza al gabinetto, per essere esatto. Chiari. Alla fine, diciamo, i cadaveri vengono a galla, perché la fogna esatto. Si ottura. Ma magari i cadaveri si consumano, però certi tipi di cadaveri rimangono perché non si consumano, sono fatti apposta. Cioè, diciamo, qual è uno dei motivi principali per cui si otturano le fogne e per cui lei deve intervenire con la sua attrezzatura? Diciamo assorbenti, però nella maggior parte dei casi preservativi. Cioè la gente butta i preservativi nella tazza e dopo un po' otturano la fognatura. Sì. Perché non se ne vanno proprio, rimangono lì. Sì, perché ci sono i pozzetti di condensa, i condensa grassi, tutte quelle robe là, i vari passaggi, e ci sono delle ostruzioni proprio per fermare i materiali che non devono passare, e quelli là tappano, col tempo tappano gli scarichi, no? Voi già lo sapete, quando vi chiamano già ridete, dice ecco, un'altra volta. Esatto. Ecco, quali sono le tipologie? Non tanto le abitazioni, le abitazioni no, quando ci chiamano le grosse aziende. Ecco, diciamo, il problema delle grosse aziende è che, diciamo, i dipendenti fanno uso giustamente dei profilattici, però dopo li buttano nel gabinetto. Sì. Diamo qualche idea per far capire come accade, come le è accaduto, come le accade. Allora, spesso. Qualche anno fa mi hanno chiamato per su una grossa azienda qua della mia zona, stavano facendo dei lavori, dovevano costruire un parcheggio sotterraneo e dovevano togliere la vasca della fognatura. Allora, prima di toglierla dovevano svuotarla, e io arrivo con la mia botte, tolgono gli muratori, tolgono il tappo con la gru, io butto dentro il tubo, se non che guardando dentro trovo praticamente una distesa di preservativi. Allora, cioè centinaia, migliaia? Più o meno, le garantisco, più o meno, senza esagerare, un 30-40 centimetri di spessore. Su una fogna di un'azienda che ha 400 dipendenti, dunque non parliamo della fogna di sì, casa. Ma cos'è? Il tubo cos'è? Un tubo da 100? Cioè un tubo da... Sì, più o meno, sì. Quindi un metro per 40 centimetri? Sì, più o meno. Cioè, diciamo, migliaia e migliaia sono. Esatto. E quindi lei cosa ha fatto? È risalito alle origini? E allora no, è arrivato il capocantiere, i muratori, e là si sono messi tutti a ridere, se non che... Poi abbiamo svuotato, abbiamo fatto il nostro lavoro, se non che mangiavamo in mensa a mezzogiorno con i dipendenti, no? Dentro all'interno dell'azienda c'era la mensa, mangiavamo con loro. E allora là i più smaliziati hanno cominciato a raccontarci queste storie, no? Che tu andavi in bagno per fare i tuoi bisogni e ti trovavi spesso le donne all'interno del bagno che ti aspettavano, diciamo forse le più brutte. Mentre invece quelle più carine, magari con un caffè alla macchinetta ti accordavi. Quindi c'era, diciamo, un'allegra gestione dei rapporti impiegatizi, sì, altro che fantozzi, e alla fine la conseguenza era che questi rapporti, essendo protetti, poi buttavano tutto dentro. Esatto. E voi avete detto, guardate, avete fatto un tappo di gomma terribile. Esatto. E loro cosa dicevano? È così. È impossibile, non si sa, qua i dirigenti cercavano di in qualche modo di raggirare il problema, però il problema era là, si vedeva tranquillamente, quelli non sono arrivati dal cielo. Ma erano persone sposate, diciamo, single? Sì, anche sposate? Sì, 400 persone, più o meno un 300 donne e 100 uomini. Ah, ecco, c'era un rapporto sproporzionato fra uomini e donne, per questo. C'erano molte più donne. Si capisce. Sì, ma me ne è successo un altro fatto simile, ditta aperta da pochissimo, tant'è vero che i muratori stavano ancora finendo di fare gli allacciamenti degli scarichi e io stavo appunto facendo la pulizia là su una casa là vicino e mi vengono a chiamare se posso dargli una sturata. Ho detto, ma cazzo, stanno ancora costruendo, diciamo. Stanno ancora facendo i lavori. È già saturato. Le garantisco, i pozzetti di derivazione già c'erano dentro i preservativi. Quindi erano stati gli operai con le maestranze? No, gli operai mi risulta difficile. E dentro ci stavano già lavorando degli impiegati, perché comunque questo era uno stabile solo di impiegati. E quindi in quanto operai. Tempo hanno già riempito il pozzetto? Un mese e mezzo. C'è un mese e mezzo di attività impiegatizia. Allora qua parliamo di un pozzetto di da 30 centimetri per 30 centimetri e non una fognatura grossa. Eh beh, però un mese, 30 per 30, già una bella cubatura. A riempirlo ce ne vuole. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Consideriamo che un profilattico quanto spazio occuperà mai? Sono sempre, si parla di migliaia comunque. Sì. Esatto, un migliaio. Sì. E quanti impiegati erano? Oddio, più o meno. Una cinquantina, un centinaio scarso, insomma. Vabbè, diciamo 100 persone in un mese consumano un migliaio di rapporti. Vuol dire che, diciamo, il lavoro per loro è un'allegria. Ma perché li buttano, secondo lei, nella fogna? Non li mettono nel cestino, non li mettono in posti che non fanno danni? Forse magari vengono consumati, i rapporti vengono consumati nei bagni. Ah, il bagno è anche l'alcova, anche il luogo dove rappa. Esatto, ecco. È il punto più facile. C'è lo smaltimento immediato. Nel cestino, se mette un cestino apposito nei bagni, come c'è quello, qua butta gli assorbenti, qua butta le cose e qua butta i preservativi. Sarebbe... Sì, soltanto che si trovano. Perché le signore delle pulizie poi le troverebbero, allora magari c'è quella, una persona non sposata, ma anche la persona ci sposata. Vorrebbe un inceneritore in ogni bagno, come quello che strappa i documenti, li fa striscioline, è una cosa che li vulcanizza al volo. Va bene, grazie, mi rendo conto che abbiamo lanciato un appello alla civiltà. Impiegati italiani, voi che vi lamentate comunque degli orari di lavoro, della fatica, della mole di lavoro, abbiamo capito che però andare a lavorare molte volte può anche essere piacevole, però non lasciate almeno tracce di quella che è la vostra attività ludica, perché poi come signori, come il nostro amico, hanno la vita molto difficile. Grazie, buon viaggio. Grazie a lei Nicoletti, buona giornata. Lasciatomi alle spalle lo spurgatore con tutto il suo bagaglio di amori nascosti, di clandestini accoppiamenti, le cui tracce gommose rimangono indelebili nelle fogne cittadine e partoriranno forse coccodrilli e saranno origine di leggende metropolitane. Guardo quel giovane con lo sguardo assorto, mi sembra di riconoscere dei tratti di un volto conosciuto, già l'ho visto, già l'ho incontrato, con lui ho già parlato, ma sì, forse mi ricordo, aveva una storia d'amore intricatissima, si divideva una donna con un altro uomo, qualcosa del genere. Adesso gli domando come mai si trova di nuovo sul mio treno. Noi ci eravamo già visti in treno, mi sembra. Sì. Per cosa? Io andavo a Bologna, che avevo quell'appuntamento di lavoro, quel colloquio poi. Com'è andato poi? Quando è andata a finire? Ma come diciamo. Come sempre. Le faremo sapere. Le faremo sapere. Ma tu, c'è anche una questione intricata, sentimentale, o sbaglio? Sì, è passato parecchio tempo. C'è una fidanzata, hai fatto un chiarimento con l'altro fidanzato. C'era una donna, mi sembra di ricordare. Sì, una doppia vita. Stava con te e con un altro. Sì, sì. Il treno va. Nessuno sapeva dell'altro, poi un giorno vi siete incontrati voi due, vi siete detti guarda che sta con me, non sta con me. Sì, poi c'è stato questo incontro all'epoca con il, diciamo, ragazzo che poi era ufficiale, diciamo, la figura, il legame vero, quello solido, quello costruito negli anni, nel tempo. Stava peggio di te lui comunque. Ma oddio, poi alla fine sì, lui diciamo chiaramente molto sorpreso, anche se poi aveva quel modo di rendere la cosa meno antipatica di quello che poteva era essere. Era fatalista. Sì, sì. Come sì, l'avete sì. scoperto? Chi l'aveva scoperto? Non mi ricordo. Ma fondamentalmente io credo, allora l'ho scoperto io, però fu anche lui aveva dei sospetti, perché chiaramente arrivavano questi messaggi strani e lui chiedeva: ma chi è questo? Chi è questo? E lei. E come facevate per l'uscita? Usciva una volta con uno, una volta con l'altro? Sì, sì, sì, sì, sì, riusciva, anche perché loro due vivevano a distanza, c'era una distanza tra di loro, per cui era facile per lei. E diciamo, quando partiva da te cosa diceva? Vado a trovare i miei genitori, mio padre, mia madre, oppure viene a trovarmi mia sorella, per cui questi giorni sto impegnata con mia sorella. E mai avete avuto un sospetto di questa cosa? Mai. E lei come ha reagito poi? Gli avete detto questa? Ci incontrammo io e lui e ci fu questa sorta di... Sì, ma la ragazza poi l'ha saputo che voi... Sì, sì, sì, l'ha saputo. E chi gliel'ha detto le due? C'è stato poi un confronto tra lei e il fidanzato. Fidanzato. E con te non ha più parlato? No, in verità poi io diciamo mi chiamò qualche giorno dopo chiedendomi ma che cosa hai fatto, come quasi rimproverandomi, no? Dice ma come ti è saltato in mente di fare sta cosa? E beh tu dici scusami, potevi dirmelo. Appunto, quello invece che, lei ha detto. È una cosa mia. No, successe che vabbè, quella telefonata fu particolarmente diciamo imbarazzante ma logicamente poi io insomma la rimproverai, dissi ma sì, lo potevi dire insomma, ma come ti è saltato in mente per tutto questo tempo? Quanto tempo è durata? A 3 anni quasi. Cioè 3 anni è riuscita a gestire una doppia situazione. Sì. Beh, una grande comunque. Sì, vabbè, insomma. Ma lei che gliene veniva? Sì, c'era due uomini, ma alla fine era anche faticoso per lei, no? Sì, sì, io credo che poi è lei che, diciamo, forse non aveva magari neanche un rapporto molto lineare con il... Ma forse stava bene così, un fidanzato fisso nella città d'origine e un altro fidanzato nella città di lavoro, al massimo. Sì, sì, sì, sì, gli uomini lo fanno spesso, non perché non deve farlo una donna, onestamente. Ma sì, infatti questa è una cosa, diciamo, che... È abbastanza normale, un maschio, ha varie storie in piedi. Ma infatti poi alla fine l'unica cosa, ecco, che avrei preferito saperlo, ecco. Senti, poi com'è andato, che epilogo ha avuto? La più sentita, vista? Parecchio tempo, siamo stati separati per parecchio tempo, parecchio... tanto tempo è passato. Mai più fatto vivo te, no? Io sì, troncai... Non l'hai più cercato. Esatto, troncai la storia di netto. Ma io ho una mia idea, diciamo, su questa vicenda. E tu cosa pensi? Io penso che, niente, io credo che sia una persona con tanti nodi ancora. Sì, vabbè, queste sono le cazzate, ci diciamo noi, tanti nodi. A lei stava bene con la situazione ottimale, scusami, hai un cambio continuo, un refresh continuo, e due persone ti danno stabilità allo stesso tempo differenza. Che tu non vuoi entrare in questo gioco, ma se tu entrassi in questo gioco, l'altro sembra che stia bene, perché sennò non ci si rimetteva assieme, scusa. Ma infatti il dato, quello che penso io è che chissà quando, cioè lui cosa fa, nel senso se anche lui magari ha un'altra storia. Ma secondo me lui, sai, purtroppo per lui è intrippato di questa donna e le ha perdonato una cosa che è un po' difficile da perdonare, perché una cosa è una fuga, un momento di leggerezza, ma una relazione di 3 anni vuol dire che una persona è da un'altra parte, non sono nemmeno sposati, chi la obbliga a starci insieme? Se ci sta assieme vuol dire che ne è innamorato, probabilmente, ne è preso, ne è appassionato. Ma magari anche lui magari ha lo stesso modo di lei, ha una sua... Sì, ma che se la tiene a fare, cioè, allora cambiasse. L'uomo cinico e l'uomo spietato è quello che vince sempre, sì. Purtroppo. Sì. Noi uomini civilizzati abbiamo sempre questo spettro che subentra tra noi e l'oggetto della nostra passione. Un uomo rozzo, cattivo, spietato, maschilista, anche che mena magari, sì, o però violento, capito? Puzzolente, così. Animale. Che, animale. Animale. Che lascerà sempre una scia indelebile sul suo passaggio. Ne ricordo. E tu puoi essere comprensivo, puoi essere gentile, puoi essere appassionato, puoi essere previdente. Brillante. Puoi essere brillante. Non ne frega niente a nessuno. Questo lo sai, no? Sì, sì, sì. Questo è io tuttora sostengo che la formula, il binomio uomo cinico e spietato vince, sì, cioè, assolutamente. Bisogna nascerci, e se non ci nasci allora o dovresti non ci diventi, no, è impossibile, no, o in alternativa dovresti avere una storia con una ragazza della quale diciamo ti importa molto poco. Allora a quel punto puoi dare il peggio di te e non avere quel rammarico. Ma no, perché vedi, siccome siamo civilizzati, di una persona ti importa poco perché devi trattarla male, che bisogno c'è? per quale cattiveria insulsa dovresti maltrattare una persona. Una persona che ti importa poco è una storia leggera, fine. Non ti viene trattarla male. Una storia leggera finisce da sola. Il cattivo di maniera, il cattivo di maniera ha un metodo. Dice: le donne vanno trattate tutte malissimo. Se le tratti male, le tieni al loro rango e le domini. Ma a noi non ci importa niente dominare le donne. È una fatica immensa. Perché devi fare il padrone delle donne? Nessuno vuole avere un harem di ancelle. Bisogna vedere. Ambiamo a vedere rapporti paritari, soddisfacenti, così. No, vince quello che vuole schiavizzare. E quindi possiamo dire che a distanza di anni, quello che diceva Rocky Roberts col suo celebre pezzo, con tutte le ragazze sono tremendo, prima le lascio e poi le riprendo. Esattamente, vince Rocky Roberts. Vince Rocky Roberts. Vabbè, pazienza. Possiamo dirlo. Facciamocene una ragione. Ciao, buon viaggio. Grazie. Ciao. Che bello, siamo tornati ai tempi in cui le audiolettere erano vergate da calligrafie femminili. Lo dico così, per una sorta di romantico e allucinatorio retaggio. In realtà sono tutte scritte, inviate via mail. Anzi, molte cominciano ad arrivare via WhatsApp. Non so come, hanno intercettato il mio numero di telefono. E mi arrivano le audiolettere via WhatsApp e me le ascolto nel telefono mentre viaggio. È un digressivo come un altro, una maniera per passare il tempo. A scrivermi per ribilanciare un pochino l'identità di genere delle autrici di audiolettere al treno va quattro amiche. Sono quattro amiche, sono quelle amiche indissolubili che rimangono assieme dai tempi della scuola fino ai tempi mesti, forse, di una possibile vedovanza. Caro Gianluca, chi ti scrive è un gruppo di quattro amiche che si conoscono dai tempi dell'università. Abbiamo studiato tutte nella stessa facoltà, ci siamo frequentate molto nella fase classica degli studi, ma ancora oggi ci vediamo di tanto in tanto e ci divertiamo a giocare al gioco del «Che fine ha fatto?». Ti scriviamo perché ultimamente ci siamo confrontate sulla vita di un'altra nostra amica, che noi chiamiamo il gatto selvatico, e su di lei vorremmo avere un tuo parere. Lei oggi è una bella quarantenne, e bella lo è sempre stata. Di origine straniera, è nata e cresciuta in Italia all'interno di una famiglia problematica, con un padre ultra autoritario, da cui lei ha imparato molto presto a sfuggire. Lei ci colpiva perché capiva subito come erano fatte le persone, quali fossero i loro punti deboli. Verso i 22 anni si mette insieme con uno studente della nostra facoltà, figlio della classica famiglia bene-torinese. Poiché ovviamente non poteva raccontare al padre del suo innamoramento, decide di andarsene. Si piazza a casa dei suoceri. Per 5 anni rimane lì, accolta come una figlia, accudita e vezzeggiata. I suoceri le pagano gli studi e le comprano anche un'auto. Ma appena lei finisce l'università, ecco che con tempismo vagamente sospetto, si accorge che finisce anche l'amore per il coetaneo bacchettone. Da un giorno all'altro gli dice arrivederci e grazie. Rimane sola? Si mette a cercare lavoro? Ma che? Dopo una settimana si innamora di un imprenditore molto più grande di lei e ci racconta del fascino irresistibile di quest'uomo che casualmente è anche lui molto benestante. Poi immediatamente gli propone di cambiare città. Le male lingue dicono perché voleva fare piazza pulita della sua reputazione sentimentale non integerrima. Ci saluta tutte e dopo 6 mesi si sposa con il ricco imprenditore di cui rimane incinta di un bambino. Passano 2 anni e un giorno, per noia, ci racconta che ha cominciato a chattare. Poteva mai la cosa rimanere senza conseguenze? Tra di noi ce l'aspettiamo e infatti succede che, casualmente, si imbatte in un uomo a suo dire irresistibile. Subito diventano amanti clandestini. Dopo un po' di tempo, la decisione. Lei si separa e divorzia dal marito imprenditore senza ovviamente dirgli nulla dell'amante. Si prende la sua quota di alimenti e va a vivere ufficialmente da sola con il bambino. In realtà, anche con il suo nuovo compagno che abita nell'appartamento di sotto e che ovviamente le passa laute prebende mensili. Non ci sarebbero gruppi di amiche se non ci fosse un'amica di cui parlare alle spalle. In questo caso, la cosiddetta gatta selvatica, che di tutte in fondo è la più bella, la più spregiudicata, quella che sa esattamente quello che vuole dalla vita, è il bersaglio delle tante amiche. Non è una vostra amica, è una vostra rivale irraggiungibile. È il modello a cui voi tendete, non avete mai avuto il coraggio di raggiungere. È la vera donna, che si confronta con voi, che dell'essere femmine avete soltanto il lato positivo, il lato compassionevole, il lato che a tutti piace. Voi siete le badanti di uomini farlocchi e lei è la domatrice di uomini potenti. Questa è la differenza fra voi e lei. Ogni qualvolta noi ci confrontiamo tra amiche, ci diciamo ridendo che lei vincerà sempre e la guardiamo con un pizzico di invidia. Noi che proviamo ancora a sprecare energie nei rapporti di coppia e nella fatica della lenta costruzione di qualcosa nel quotidiano e nell'affrontare i problemi sentimentali invece che eliminarli. Diciamo la verità, non possiamo competere noi gatte sceme rammollite con un gatto selvatico. Lei saprà sempre come cavarsela in tutte le situazioni e come continuare a incastrare gli uomini. Mentre a noi non resterà che sorridere quando tra un po' di tempo la sentiremo annunciare con quel candore spiazzante: «Ragazze, non sapete che cosa mi è successo? Ho conosciuto un uomo straordinario!» Ecco, cominciamo a pensare di aver sbagliato tutto. O no? Vogliamo avere il tuo parere. Grazie. Guardate, care amiche, che per essere gatte selvatiche non basta essere belle, anzi, non è nemmeno necessario essere belle. Le gatte selvatiche più graffianti, più mordaci, più pericolose conosciute non erano affatto belle, secondo dei canoni condivisi. Erano donne selvatiche. Erano donne che sanno uscire a caccia la sera e tornano con la loro selvaggina. Sono donne che non si fanno scrupoli, sono donne che rischiano. La gatta selvatica può sempre finire preda di un cacciatore, può sempre finire in una trappola, può sempre finire vittima di un boccone avvelenato. Lo sa che la sua vita è un rischio e lei, rischiando, corre di albero in albero, di foresta in foresta, azzanna la sua preda, la spolpa per bene, ne succhia il sangue e poi la lascia sempre alla ricerca di nuove prede. Voi avreste il coraggio, la costanza di fare quello? Voi rischiereste il torpore e il tepore delle vostre tranquille famiglie per essere gatte selvatiche? Non la invidiate. La sua non è una vita facile, è una vita apparentemente gratificante, piena di soddisfazione, piena di gioie, piena di lussure e piena di vendetta nei confronti del genere maschile. Voi rimarrete sempre alle sue spalle, rimarrete sempre nella altalena tra l'invidia e il disprezzo, voi rimarrete sempre gatte morte e lei sarà sempre l'unica gatta selvatica del vostro giro.